Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. 19ª puntata. Ermelinda aveva un diario particolare per i viaggi, dove annotava minuziosamente, per pagine e pagine, alberghi, mezzi di trasporto, monumenti, panorami. Così le vacanze non erano tempo perduto, ma esperienza. Per raccontare il dolore, utilizzò soltanto poche righe, un'unica pagina, in quello stesso diario perché anche quella era un'esperienza. Anno 1936, anno di pene e di sofferenze per il mio angelo e per me. Nei mesi d'estate le sue pene furono attenuate dalle iniezioni che gli praticava il professor Cappelli, il quale non poté purtroppo salvarlo, ma gli rese la vita più che sopportabile e la morte serena. La mia gratitudine per l'affetto e la tenerezza con cui si è occupato del mio angelo è immensa e inestinguibile. I quotidiani ospitarono il necrologio stilato dalla famiglia e poi molti attestati di condoglianze. La nostra bandiera, il giornale degli ebrei fascisti, di propria iniziativa copiò il necrologio e lo pubblicò, esigendone poi da Ermelinda il pagamento. Ci fu consiglio di famiglia, e certo non solo per attaccamento al denaro. Alla fine, a denti stretti, Ermelinda pagò. Ancora il funerale fu imponente, ancora si radunarono attorno al feretro nomi prestigiosi della finanza e della pubblica amministrazione, però con una freddezza perfino ostentata, con una presa di distanza inconsueta quanto netta. Pochi fiori sulla tomba, Ermelinda piantò cespugli di mortella resistenti al tempo e all'incuria, alle assenze ulteriori che si profilavano. E anche nel nome di Angelo fu indetta una sottoscrizione che fu per i progetti di Enzo in Palestina una boccata di ossigeno. Parigi. Tante case diverse per mantenersi clandestini. Il lavoro di partito a tempo pieno per Mimmo e per Xenia. Con una grande allegria e una gran voglia di fare, perché Parigi significava libertà di lottare, ma anche il profumo delle baguette, il metrò, i balli in piazza, il cinema, le passeggiate al Bois. Poi gli ordini cambiano. Una casa in periferia, un piccolo lavoro da proletari. Xenia cuce divise militari, Mimmo studia da tornitore per entrare alla Renault. Però Mimmo ora fa parte del gruppo dirigente del partito e anche Xenia accetta incarichi più suoi, più in prima persona, e fonda un giornale che sarà Noi Donne. Dall'Italia arrivano lettere, libri, medicine, soldi, per aiutarli a costruirsi questa esistenza nuova, ricca persino di un'altra gravidanza, di un'altra figlia. Il vezzeggiativo Marinella addolcisce il peso di un'eredità, perché di nuovo chiamarla Marina è per continuare la battaglia, per raccogliere una fiaccola quando chi la porta sarà caduto. Lello e Alfonsa in visita a Parigi, un turismo da nonni faticoso e non voluto. Con le nipoti si fanno fotografare davanti all'Arc de Triomphe e nel giardinetto della casa. Non con Mimmo, perché ci sono spie dovunque o potrebbero perquisirli. Per l'arrivo di Enzo le precauzioni sono ancora più attente. Il suo lavoro per il sionismo lo segnala ormai alle polizie del mondo. E ci sono altre circospezioni, quelle di un incontro rimandato per anni. Zusammen und zu Fuß. Camminando di buon passo sui lungo Senna, Mimmo ed Enzo tornano a discutere, a parlarsi, scontrandosi su Croce e Marx. Perché di nuovo e come con nessun altro basta un accenno per capirsi, una citazione per dirsi avversari. Due metà di una stessa mela, l'una per l'altra, insostituibili. In Palestina Xenia è lo stupore di molti, per l'età non più verde e soprattutto perché non ebrea. Il bisogno che ha di mettere radici è fortissimo. Vuole finalmente pensarsi stabile e in diritto, e salda nell'affetto di chi ora le sta intorno. Sceglie di vivere a Na'an, un kibbutz tutto di giovani, e dopo poco tempo è per tutti la nonna. Una nonna romantica e saggia, con un odore tranquillo addosso e la grossa treccia che di nuovo la incorona. Le si suppone un amore, Xenia non se ne vergogna né lo esibisce. Concorda con le autorità del kibbutz il lavoro da barbiera, le conferenze sulla storia russa e l'arte italiana. Nella sua stanza la riproduzione di un'icona, una fotografia di Lev, il ritratto di Xeniuska bambina con gli occhi grandi e l'orsacchiotto Mishka fra le braccia. Sulla scrivania l'orologio da taschino di Lev scandisce ore anche serene, però la nostalgia per sua figlia è un dolore acuto di cui non riesce a liberarsi mai. Un dolore in parte imprevisto per lei, che tanto a lungo si è progettata un'autonomia, un'esistenza nella quale l'essere madre non fosse più il primo punto all'ordine del giorno. Ma non così lontane. Capitano momenti a Enzo nei quali l'Italia è una nostalgia dolorosa, non per gli agi materiali, dei quali fa a meno perfino volentieri, ma per l'agio intellettuale che ha condiviso innanzitutto con Mimmo e poi con tanti altri, gli amici e i compagni della scuola e dell'università. E tutto allora appariva definito, il bianco e il nero, il buono e il cattivo. Certe volte si sente soffocare, gli scontri all'interno dei gruppi sionisti lo sfiniscono. Vorrebbe con l'azione mettere fine alle diatribe, alle discussioni defatiganti che intralciano ogni passo. Continua il suo lavoro per l'agenzia ebraica, di cui lui per primo sa che è indispensabile. Però ogni tanto si prende una vacanza. L'intellettuale che si porta dentro prende il posto che gli spetta. Questi anni sono stati per me pieni di esperienze varie, in terre assai diverse e fra uomini della più svariata sorte. Ne sono venuto fuori un po' più vecchio ma sempre ardente, se anche il mio cuore non batte sempre all'unisono di quello della gente fra cui mi trovo. Così mi accade di essere un po' straniero fra tutta la gente con cui mi incontro, marrano in tutti gli ambienti fra cui mi aggiro, estraneo in certo senso almeno anche nel mondo palestinese che è, in un modo o nell'altro, il più mio. Quanto ci sia in ciò di destino personale, quanto sia comune questo spaesamento a tutti coloro che, volendo essere irriducibilmente europei, non possono radicarsi profondamente in nessuna delle tradizioni nazionali della vecchia Europa, mentre una internazionale ancora non s'è in certo senso formata, non saprei dirti. Dopo anni di attività pratica, culminati in una interessantissima, quasi biennale permanenza negli Stati Uniti, sono stato per questi ultimi 3 mesi qui a Londra e mi sono ridato agli studi. Gradita impressione e grande, rinnovata passione per i libri e per il colloquio con i grandi, faccia a faccia, sui documenti vivi delle loro vite e passioni, Far from the Madding Crowd. Ho quasi finito un libro su come l'Inghilterra conquistò l'Egitto, dove mi sembra di aver raggiunto un certo equilibrio fra la passione pratica che mi ha spinto a studiare l'argomento e quella meditativa che mi ha per mesi portato a ricerche minuziose e affascinanti non sempre. Se e come pubblicherò il libro non so, ma è servito. Si licet parva componere magnis, come diceva Marx, a chiarire a me tanti problemi e questo è già molto. Scrivimi di te, dei tuoi studi. Via dalla folla, un desiderio crescente con il passare del tempo. Ma proprio la follia che sempre più va scatenandosi nel mondo lo costringe, per disciplina e convinzione, a restare, dentro all'azione e ai problemi, e lo spazio che gli rimane per sé si riduce progressivamente. La prima missione di Mimmo nell'Unione Sovietica. Un riconoscimento, una grande emozione, un'attesa grandissima per ciò che potrà di quel paese sognato vedere. Aspettando la partenza con Xenia, parlano esclusivamente in russo. Mimmo non vuole impedimenti di lingua neanche minimi. Tanti passaggi di frontiera, emissari servizievoli che lo forniscono di volta in volta di documenti, informazioni, ragguagli. Il paese del comunismo lo accolse con polizia, interrogatori, arresto. Non si stupì. Conosceva le tortuose teorie di Stalin sui controrivoluzionari e concordava con lui, con il partito, sulla necessità di guardarsi anche da se stessi. Non fece questioni di antisemitismo, neanche quando capì che i dubbi, anzi le accuse a suo carico, vertevano quasi esclusivamente sui suoi rapporti non sufficientemente prudenti con ebrei, da Hirschman a Curiel a Eugenio Colorni, a Enzo. Si disse e disse che tutto questo, e l'altro che si poteva intuire, era giusto, anzi necessario. Così alto era il fine, un destino collettivo potenzialmente perfetto, che gli inciampi del singolo cammino non potevano avere importanza. Tornò da Mosca convinto delle proprie scelte più che mai. La fortuna che aveva avuto di tornare era una conferma e il ricatti li chiamò linea politica. Insegnò a Xenia e a Leuzzi una canzone d'amore, Suleiko, che fosse la prediletta di Stalin e perciò così in voga, lo confermava della qualità dell'uomo e cantandola si sentiva partecipe di quella storia, di quel progetto, in un modo più interno ed intimo di quanto mai gli fosse accaduto. Nei cori possenti e reiterati che intonavano l'Internazionale, aveva ritrovato il piacere fisico di cantare insieme, di officiare insieme un rito. Negli abbracci ostentati dei sovietici, nei discorsi pomposi, nelle litanie di brindisi riverberanti gerarchie che pena la vita era necessario rispettare, aveva trovato conferma alla tendenza già sua a discriminare, a separare in ogni momento le responsabilità di partito dagli affetti, dalle emozioni, dalla vita. Chissà se, in caso di necessità, avrebbe rinunciato anche a Xenia, legata a lui così indissolubilmente. E chissà se raccontò a Xenia di quel che era avvenuto e come. Di certo, proprio per quello stesso indissolubile legame, Xenia capì non appena le fu chiesto qual era il suo dovere di compagna. Parigi, 28/11/1937. Carissima mamma, non ti sei sbagliata. Il mio silenzio non era casuale. Ma non temere, stiamo tutti bene qui a Parigi. Mimmo non è andato in Spagna, sebbene molti compagni adesso siano là, perché ciascuno ha il suo lavoro e il suo lavoro adesso è qui a Parigi. Hai ragione, non è soltanto per negligenza o per qualche altra causa esterna che per 3 mesi non ti ho scritto. C'è una ragione ed è seria. Ti parlerò in modo molto serio e spero con tutte le mie forze che mi capirai. Tu sai che già da molto tempo sono attiva nelle file del Partito Comunista, ma probabilmente non ti immagini che il mio lavoro per me non è una cosa tra le altre, ma è il centro della mia vita, così come è il centro della vita di Mimmo. L'azione è per noi più importante della famiglia, più importante dei figli. Se adesso Mimmo fosse più utile nelle trincee di Spagna che qui, non esiterei nemmeno un momento e gli direi «Parti, vai!». E la vita di Mimmo, sappilo, mi è più cara di qualsiasi cosa al mondo. E altrettanto posso dire per quanto riguarda le figlie. Se fosse necessario abbandonarle per andare altrove, le abbandonerei. Non meravigliarti se ti scrivo tutto questo. È che per capire una persona bisogna conoscerla. E tu, dopo tanti anni, puoi già forse quasi non conoscermi. Tu mi conoscevi ancora insicura, che non sapevo quasi niente, soltanto credevo in Mimmo. Ora sono profondamente cambiata. I lunghi anni di assenza di Mimmo mi hanno costretta ad alzarmi dritta sulle mie gambe. E l'anno di permanenza a Parigi mi ha dato, per la prima volta in vita mia, la possibilità di trovare la mia strada e saggiare finalmente le mie forze. Ecco perché ciò che ti scrivo lo scrivo non sotto una qualsivoglia influenza, come poteva accadere prima, ma partendo da me. Ti scrivo ciò che sento già da molto tempo e ciò che penso. Il partito italiano lavora in condizioni estremamente dure, in piena clandestinità. Perciò prima di accettare un nuovo membro bisogna essere pienamente sicuri di lui, delle sue idee, della sua onestà, delle sue capacità. Su di me ci sono dei più, dei dati positivi, ma anche dei meno. I più sono innanzitutto i miei genitori, che durante la prima rivoluzione si sono battuti ostinatamente contro la Russia zarista. In secondo luogo il mio lavoro in Italia, con Mimmo e senza di lui. In terzo luogo la mia vita personale, semplice e chiara. Ma ho anche dei meno. Tra questi, i rapporti che ho avuto con Savinkov, uno dei più attivi controrivoluzionari. Il fatto che io abbia vissuto a lungo nell'ambiente dei social rivoluzionari, dal primo istante nemici dell'URSS. E infine il fatto che i miei parenti più prossimi, tu e la zia, anche se in voi non c'è più quella profonda ostilità verso l'URSS che nutrivate un tempo, siano dei controrivoluzionari. Mammina, non meravigliarti se ora parlo di tutto questo come se non riguardasse noi. Probabilmente non capisci ancora per quale ragione scrivo tutte queste cose. Scusami se scrivo in modo disordinato, ma questa è una lettera difficile da scrivere. Ed ecco che mi si pone un problema. Ho il diritto io, in quanto membro del partito, di mantenere rapporti con persone che possano danneggiare seriamente la mia azione, danneggiare seriamente l'Unione Sovietica? Questa questione non si era posta fino ad ora con tanta acutezza, perché solo in quest'ultimo periodo è diventato chiaro che chi non è con noi è contro di noi. Il processo ai trotskisti ha dimostrato fin troppo bene come sia necessario guardarsi dai nemici dell'URSS, perfino quelli non consapevoli. Credo che tu capisca quanto penoso sia per me dirti queste cose, mammina mia. Ma so che capirai. Forse per me sarà duro, forse intollerabilmente difficile passare sopra un sentimento così profondo qual è l'amore per la propria madre. Ma non ho il diritto di porre i miei sentimenti personali al di sopra degli interessi del partito. Se tu avessi dimenticato la tua stessa vita, la vita di mio padre, consacrata ai suoi ideali sino all'estremo, allora ti indigneresti, diresti che nulla può valere più di una madre e che non c'è cosa al mondo che possa giustificare la scelta fra la propria madre e qualcos'altro. Ma io so che tu non solo ricordi i giorni della tua giovinezza, ma che sei ancora la stessa di allora. E come allora daresti alla tua causa tutte le tue energie, ed anche ora, come allora, sacrificheresti per lei anche la persona a te più cara. Per questo quando ti dico che metto il partito al di sopra di te, non ho dubbi. So che questo sarà duro per te, soprattutto ora che sei rimasta ancora un po' più sola, ora che hai sempre meno forze per lottare contro le difficoltà della vita e nel momento in cui, forse, cominci a pensare alla possibilità di vivere finalmente con i tuoi figli e nipoti. Ma nel profondo della tua anima, tu non puoi non gioire del fatto che tutti i tuoi sforzi non solo non sono stati vani, ma hanno prodotto qualcosa che è degno di te e di mio padre. Magari dentro di te dirai quanto sarebbe stato tutto più tranquillo se non mi fossi occupata di politica, se fossi stata una qualunque donna di casa. Ma sai benissimo che non ne saresti stata contenta, come non eri contenta quando sembrava in un certo momento che sarei stata così io. Tutte le energie che hai prodigato per me danno ora il loro frutto, finalmente. Ora posso dimostrartelo e dirti quanto te ne sono riconoscente. Certo, quando penso a cosa significhi interrompere i rapporti tra noi, cioè non scriverci nemmeno due parole, ho una sensazione di terrore. Non riesco ad immaginare come questo sia possibile. Io ti amo come prima e forse di più. Perché ora amo e rispetto in te non solo la madre, ma anche la persona. Tu sei tutta la mia infanzia, tutta la conoscenza che ho del mondo. Sei tutta la mia famiglia e soprattutto sei mia madre. È per questo che mi ci è voluto tanto tempo per decidermi a scriverti. Avevo paura di darti un dolore troppo forte. Ma avevo paura anche per me. Ma noi rivoluzionari non abbiamo il diritto di esitare o di aver paura. Se così è stato deciso, così deve essere. Ti ricordi come ti indignavi quando la giustizia, la morale sembravano non avere per me alcun valore? Ti ricordi quando non mi interessava niente? Ti ricordi quando non sapevo e non volevo pensare? Le tue parole allora scendevano in me come nel vuoto e sembrava che non lasciassero alcuna traccia. Sono trascorsi tanti anni e adesso, quando mi sembrava di averle dimenticate, Ecco che quelle parole sono risorte in me con inaspettata chiarezza. E per quello che mi dicesti allora ti ringrazio ora, dal profondo dell'animo. Credo che la coscienza che tutto quello che hai fatto per me non è andato perduto dovrebbe darti una grande gioia. Alcuni anni fa a Portici, quando ti dicevo della mia infanzia, tu mi scrivesti che era terribilmente duro scoprire troppo tardi che le tue forze migliori erano state spese inutilmente. Ma ora posso dirti che perfino quello che sembrava gettato al vento, perfino quello ha dato i suoi frutti. Non potrei essere così sicura di me oggi se fossi cresciuta in maniera diversa e se la tua fiducia assoluta di allora non avesse lasciato un segno profondo. Proprio perché hai dato tutta la tua vita per me, per costruire la mia vita. Darmi salute fisica e morale. Proprio per questo so che non solo non ti opporrai alla mia decisione, ma sarai orgogliosa della mia forza, del mio coraggio. E tu stessa mi aiuterai, mi sosterrai in questo momento difficile. Sarà più facile se il peso lo porteremo in due. Non ti scriverò, non mi scriverai, ma tu lo sai di essere mia madre. Sai che resterai sempre la mia mammina. E tutto il mio affetto, tutta la mia devozione. Tutti i sentimenti che si provano soltanto nei confronti di una madre, tutto questo sarà in me come prima, più forte di prima. Di questo puoi essere certa e questo ti sarà di conforto. Ti aiuterà ad accettare con spirito sereno la mia decisione. Ai genitori di Mimmo continueremo a scrivere, non pensare che questo dipenda da loro. Se fosse necessario interrompere la corrispondenza anche con loro, non dubiteremmo neanche per un attimo. Ti abbraccio forte, mammina. E ti mando baci infiniti da parte mia e delle nipotine. Tua Xenia. Era un'altra puntata di Ad Alta Voce, la 19ª puntata della lettura del Gioco dei Regni di Clara Sereni. La voce è quella di Monica Piseddu. Ad Alta Voce a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. La regia è di Riccardo Morese. Vi ricordo che tutte le musiche, se ne siete curiosi, potete trovarle indicate sulla pagina web di Ad Alta Voce. Potete anche riascoltare le puntate precedenti sempre sul sito Rai Play Radio. E torniamo all'ascolto musicale di oggi. Gianfranco Manfredi, vedo parole di entusiasmo sulla nostra pagina Facebook. Matteo Zamorani Alzetta dice: il disco del giorno è semplicemente il più grande album di tutta la storia della musica leggera italiana. Del resto, Gianfranco Manfredi non appartiene solo alla storia della musica leggera, perché, per esempio, ha iniziato negli anni 90 una attività intensa di sceneggiatore di fumetti. Ha creato il personaggio di Magico Vento, ha scritto storie per Dylan Dog, ha inventato ancora altri personaggi, quindi ha una seconda carriera di tutto rispetto. E poi è stato anche attore cinematografico, per esempio. Ma comunque il suo album che andiamo presentando è una parte importante, direi essenziale, della sua scommessa sulla fama, se vogliamo usare questa espressione scherzosa. Si intitola, vi ricordo, Zombie di tutto il mondo, unitevi. È un album del 1977 e il brano che adesso ascoltiamo è Ultimo Moicano. Ultimo Moicano, San Pietrino in mano. Solo qui nella via e la barricata dove l'han portata non c'è proprio più.